America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Actually, I was born in the United States and then I cultivated this accent to give myself an air of being an ethnic minority. Arianna Huffington non poteva avere presentazione più hollywoodiana di questa. È un giornalista personaggio e nelle cronache perché? Beh, perché nel 2005 ha costituito un sito internet che si chiama Huffington Post, dal suo cognome, che è diventato uno dei siti di notizie più seguiti d'America e del mondo, perché ovviamente essendo in inglese ha un pubblico internazionale. Ebbene, la notizia è che ieri è stata confermata la vendita di questo suo sito al gruppo AOL, AOL.com, per la bellezza di 315 milioni di dollari. Complessivamente ne erano stati investiti circa 30, 35, c'è chi dice 40, comunque non al di sopra di questa cifra. È un affare che ha colpito molto perché rappresenta una svolta nel settore media sotto molti punti di vista. Intanto attribuisce un valore molto concreto ed elevato, secondo me, per i parametri attuali, a un sito che poggia non su operazioni di social network, ma quasi esclusivamente su notizie. Conferma sull'altro fronte che AOL vede il suo futuro più nelle news che nei servizi su internet come la posta elettronica e che l'aggiunta dei 25 milioni di visitatori unici di Huffington Post potrà avere, diciamo, un effetto moltiplicatore sul suo parco, che è stimato in 117 milioni di visitatori unici in America e 270 su scala mondiale. Dunque è un accordo questo che ridisegna il settore competitivo sulle news, dove si stanno affollando, oltre a AOL, anche Google, Microsoft e altri operatori di internet, con una minaccia diretta naturalmente per gli editori tradizionali, che non sono riusciti a tradurre in un successo strepitoso sul loro sito le loro news. Vi do soltanto un esempio. Il New York Times, per esempio, riceve come punte massime circa 700 commenti per un articolo, che sono già delle punte strepitose se pensiamo ai nostri standard, che se ne riceviamo 30, 40, 50 sono già delle punte importanti. Mediamente il New York Times riceve fra i 150, 200, 250 commenti sugli articoli che sono posted on the internet, posti sul loro sito. Huffington News invece, per storie analoghe, che magari sono addirittura tratte dallo stesso New York Times, attira fino a 6-7 mila commenti, e questo conferma che c'è una presa fortissima di questo sito sul pubblico più sofisticato della rete, che è un pubblico giovane, è un pubblico importantissimo come target pubblicitario. Ecco, c'è da chiedersi: è soltanto il mito di Arianna Huffington? Sentiamola. The big picture, Keith, has to do with what the exit poll said. 9 out of 10 Americans worried about the economy. 90% worried about the future. Allora, Arianna Huffington l'ho incontrata un po' di volte, devo dire, un personaggio straordinario, una donna molto determinata, molto intelligente. È nata in Grecia, è venuta negli Stati Uniti con una straordinaria voglia di fare, si è sposata a un certo punto con Michael Huffington, che era un miliardario americano che poi, amico dei Bush, ha cercato di prendere un seggio al Congresso, ci è riuscito, è diventato deputato. Arianna Huffington si è trasferita a Washington con lui, è riuscita a farsi una rete di conoscenze, fino a che poi non si è scoperto che il marito, che era un repubblicano conservatore, era un bisessuale, e dunque si sono separati. Arianna si è messa per conto suo e quello che dobbiamo dire è che il successo di questo sito non dipende solo da lei, che resta a 61 anni un personaggio più di facciata, il volto pubblico di questo sito, ma dipende da una straordinaria struttura organizzativa dietro questa operazione Huffington Post. Ci sono dei manager che infatti non andranno a AOL, ma ci andrà soltanto Arianna Huffington, dei manager investitori che hanno studiato a tavolino in grande dettaglio il modo in cui questo sito poteva affermarsi nel contesto di internet, andando a toccare tutti i tasti giusti, e con una serie di investimenti che sono partiti con 3 milioni di dollari, poi un round di 10, poi un round di 25, l'ultimo appena l'anno scorso, sono riusciti a creare un mito un mito attorno a questo sito che, secondo alcuni, potrebbe riproporre alcuni dei problemi che abbiamo avuto all'inizio degli anni 2000, quando c'era un po' una bolla di internet. Thank you very much, Tom, for the gracious introduction. I want to make a few other acknowledgments to Tom Bell, the Chamber Board President. Thank you for helping to organize this. There are some members of my administration I want to make sure are introduced. My chief of staff, Bill Daley, is here. Grazie Tom, dice il presidente Barack Obama. Tom e Tom Donahue, un suo grande nemico, il presidente della Camera di Commercio americana, una delle più importanti associazioni imprenditoriali degli Stati Uniti, che gli ha fatto la guerra sia nelle elezioni di novembre che durante il dibattito per la riforma sanitaria. Ebbene, Barack Obama, proprio a significare questo suo cambiamento di rotta e di rapporto nei confronti del mondo del business, è andato in quella che per lui era la tana del lupo, è andato con un messaggio pacifico di collaborazione e soprattutto ha detto una cosa, sentiamolo. If we as a nation are going to invest in innovation, that innovation should lead to new jobs and manufacturing on our shores. The end result of tax breaks and investments can't simply be that new breakthroughs and technologies are discovered here in America, but then the manufacturing takes place overseas. That too breaks the social compact, makes people feel as if the game is fixed and they're not benefiting. Barack Obama ha spiegato di nuovo i cinque pilastri su cui deve poggiare il rilancio degli Stati Uniti, ma soprattutto ha fatto una proposta agli uomini d'affari, ha detto: io mi impegno a ridurre le tasse, ma voi dovete impegnarvi a tenere i posti di lavoro negli Stati Uniti. Non è possibile, non è pensabile che facciamo qui le scoperte per poi andare a produrre all'estero. Un messaggio piuttosto diretto per il futuro, ma un messaggio che si allarga, perché proprio ieri ai cinque pilastri innovativi di cui ha parlato nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Casa Bianca ha aggiunto anche un'offensiva valutaria, e cioè la ricerca di un accordo con il Brasile per contribuire a un rafforzamento dello yuan. Il messaggio è giunto da Tim Geithner, il segretario al Tesoro, in visita ieri a San Paolo de Brasil, per preparare anche il viaggio di Obama, ve lo ricordo, andrà nella seconda metà di marzo in Sud America, e per cercare di isolare la Cina. Perché? Perché il Brasile sta soffrendo dal fatto che da una parte la gente scappa dal dollaro e cerca una valuta potenzialmente più forte come il real, perché l'economia sta crescendo, dall'altra lo yuan resta molto debole. E che succede? Che i prodotti cinesi stanno invadendo il Brasile, le imprese brasiliane devono chiudere, alcune portano la produzione fuori, insomma si sta riproducendo in un paese emergente quello che succede nei paesi industriali avanzati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. La dedichiamo a Teddy Thompson, un giovane cantante di 34 anni, arrivato al suo quinto album, uscirà oggi, si intitola Bella. Il problema con Teddy Thompson è che finora non è riuscito a sfondare, non ha raggiunto il grande pubblico, persino il New York Times gli ha dedicato un articolo chiedendosi come mai questo possa essere successo, visto che ha un talento straordinario. E dunque vi faccio ascoltare, tratta da Bella, Looking for a Girl. Looking stupid that I want to cry. I know God doesn't give with both his hands, so I guess I just want someone I can't stand. I've been looking for a girl. I've been looking for a girl. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.